Europa 24. Buongiorno da Daniele Biacchessi. Europa 24 si apre con le dichiarazioni di Jean-Claude Juncker a pochi minuti dall'inizio del vertice europeo. Voglio un accordo equo per la Gran Bretagna, un accordo che sia equo anche per gli altri 27. Intanto un mini vertice con la cancelliera Merkel, il presidente della Commissione europea Juncker e il premier turco Davutoğlu e i leader di altri 10 paesi europei in corso nella sede della rappresentanza permanente austriaca. Il principale obiettivo della riunione, organizzata proprio su iniziativa dell'Austria e della Germania, è l'avvio di un meccanismo per il reinsediamento di rifugiati siriani ed iracheni dalla Turchia. Oggi il Parlamento europeo ha votato a favore della creazione di una commissione d'inchiesta composta da 45 membri per indagare sulle violazioni delle norme comunitarie in materia di misurazioni delle emissioni di auto, sulla mancata adozione da parte della Commissione, dell'autorità, degli Stati membri di misure per fare rispettare le norme europee. Veniamo ai dati economici. La ripresa economica dell'area dell'euro è sempre più sostenuta dalla domanda interna nel terzo trimestre, dice il bollettino economico della Banca Centrale Europea. Il PIL in termini reali è aumentato dello 0,3% sul periodo precedente, dopo un incremento dello 0,4% nel secondo trimestre. Veniamo invece al costo del lavoro nella zona euro nel terzo trimestre 2015. Frena dall'1,6% del secondo trimestre, passa all'1,1% nella UE28, da 1,9% a 1,8%, lo dice Eurostat. In Italia è in calo da due trimestri, la discesa rallenta. Intanto sono veramente ore cruciali per i negoziati TTIP. Dall'immigrazione alla sicurezza, dall'energia alle banche alla Brexit, è ricco il menù del Consiglio europeo che si apre oggi a Bruxelles, ma nella due giorni di vertice entra in sordina anche un altro tema. Inserito nell'ultima versione della bozza c'è infatti un passaggio dedicato al negoziato per il TTP, il Trattato di Libero Scambio tra Unione Europea e Stati Uniti, con un appello a chiudere la trattativa cominciata quasi tre anni fa. I leader, è scritto nel paragrafo aggiunto ieri sera, sottolineano l'importanza attribuita a concludere con successo in negoziato e sollecitano tutte le parti a raddoppiare gli sforzi per arrivare il più presto possibile ad un accordo ambizioso, complessivo e di reciproco beneficio. Un tema che il governo cerca accuratamente di nascondere all'opinione pubblica, accusa oggi il gruppo 5 Stelle da sempre contrario al TTP. Di fatto il progetto è uno dei più controversi e dibattuti a Bruxelles. Per i promotori l'accordo avrebbe una portata storica: la rimozione di barriere commerciali e la creazione di standard comuni darebbe impulso alla crescita e all'occupazione. Ma c'è una vasta porzione di opinione pubblica, soprattutto in Europa, contraria, che vede nel trattato un cavallo di Troia per nascondere i reali interessi delle multinazionali americane. Aziende, si sostiene, che beneficerebbero di tutta una serie di deregolamentazioni a scapito della qualità del lavoro e dell'ambiente. Uno dei paesi meno favorevoli, la Francia, che vorrebbe inserire le cosiddette eccezioni culturali per proteggere alcuni settori ed escluderli in modo che possano continuare a ricevere aiuti statali. Insomma, nonostante gli appelli e gli auspici, la strada sembra ancora tutta in salita. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore. Europa 24 torna questa sera. Effetto notte. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.